Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Il sergente e il traghettatore, ben trovati. Esistono i mondiali antirazzisti. Si tengono a Modena dal 4 luglio all'8 luglio, 4 giorni, al parco di Bosco Albergati. Tutti gli anni è un avvenimento ormai che si ripete. Partecipano, pensate, 4.000 persone che rappresentano 200 squadre maschili, femminili e miste che arrivano da tutto il mondo. I partecipanti sono in realtà gruppi di ultra, gruppi di fan, di squadre, associazioni di immigrati da tutto il mondo, organizzazioni antirazziste, gruppi giovanili. Si tratta di giocare ai mondiali antirazzisti per mettere da parte rivalità e comunque aspetti di aggressività e per 5 giorni competere nel segno della pace. Si chiama metering satellitare, è un sistema per controllare la produzione di energia rinnovabile distribuita, quella che entra in rete, che come sapete è diventato un privilegio del sistema economico italiano, ma anche una grande sfida per il futuro. Ne parliamo con Gennaro Niglio, che è direttore gestione energia del GSE. Buongiorno Gennaro Niglio. Buongiorno. Buongiorno. Questo progetto è, come dire, motivo d'orgoglio, oltretutto anche dal punto di vista tecnologico, perché è una piattaforma basata sulla comunicazione satellitare e di trasmissione digitale che è abbastanza singolare o addirittura unica in Europa. È così? E come funziona questa piattaforma? Sì, Argante, è esattamente così. Il progetto è praticamente unico nel panorama europeo per la sua estensione. Ormai siamo a 1.500 impianti dei 5.000 autorizzati dall'autorità per l'energia e il gas, che ha autorizzato questo progetto che sta realizzando il GSE. Quindi in pratica ci sono delle attrezzature che voi avete collocato in 1.500 impianti che attraverso la trasmissione satellitare vi consentono di registrare che cosa? Noi registriamo la produzione degli impianti piccoli e molto piccoli, praticamente sulle case degli italiani, sui capannoni industriali che prima non erano monitorati come produzione elettrica, e di conseguenza noi monitoriamo sia la produzione che la fonte primaria, ossia quindi il raggiamento solare, il vento, l'intensità e la direzione del vento, la portata idroelettrica dei canali che alimentano gli impianti micro e mini idroelettrici. Qual è l'obiettivo, il motivo per cui voi fate tutto questo? A che serve controllare la produzione di energia rinnovabile? E permette praticamente di prevedere l'apporto di questa consistente quantità ormai di energia elettrica che entra in rete, perché con gli incentivi sono aumentati tantissimo questi impianti. Basta pensare al fotovoltaico, che ormai è arrivato a 375.000 impianti e a 13.600 megawatt di potenza, e quindi l'apporto al parco di generazione di energia elettrica è molto importante. Quindi è importante monitorare e prevedere l'energia che entra in rete e quindi fare un servizio al paese in termini anche per avere maggior consapevolezza sugli incentivi erogati. Ecco, prevedere può voler dire che magari un domani, se non addirittura oggi, potete anche suggerire e indirizzare la produzione o la distribuzione verso determinate aree in determinate ore del giorno? Sì, il sistema è predisposto anche a fare questo, anche se non ci sono delle regole ben precise ancora e sono allo studio da parte dell'autorità, del Ministero, per meglio indirizzare, come dici tu, questa energia che ha sempre un peso crescente nell'economia italiana e quindi a favore di tutti i cittadini. Bene, complimenti, un bel progetto, perché immaginiamo la grande utilità che può avere in prospettiva. Ne riparleremo sicuramente. Grazie a Gennaro Niglio, direttore gestione energia del GSE. Buona giornata. Grazie a lei. Chiudiamo con un altro annuncio: giornate della creatività e dell'innovazione, mercoledì e giovedì a Teatro India di Roma. Ci sono convegni, eventi, ma soprattutto incontro degli attori della creatività e dell'innovazione che operano nell'area metropolitana, talenti e idee sostanzialmente per far ripartire l'Italia. Se volete più informazioni andate sul sito romaprovinciacreativa.it. È tutto per oggi, andate sulla nostra pagina Facebook e cliccate su Mi piace Ferribotto-Radio24. Grazie ad Anita Panizza in redazione e a Pietro Lacorte in regia. Alla prossima.